Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. A mezzogiorno eravamo impantanati in una strada fangosa, secondo i nostri calcoli, a una decina di chilometri da Udine. Nel pomeriggio aveva smesso di piovere e tre volte avevamo sentito venire gli aeroplani. Ce li eravamo visti passare sulla testa, li avevamo guardati allontanarsi verso sinistra e li avevamo uditi bombardare lo stradone. Ci eravamo districati in una rete di strade secondarie e avevamo infilato molte strade chiuse, ma tornando indietro e trovando altre strade, ci eravamo continuamente avvicinati a Udine. Ora la macchina di Aimo, in una marcia indietro per uscire da una strada chiusa, era finita nella torre molle ai lati e le ruote, girando a vuoto, si erano sempre più sprofondate finché la macchina appoggiò sul differenziale. Si trattava ora di togliere la terra davanti alle ruote, metterci delle fronde in modo che le catene potessero mordere e poi spingere finché la macchina fosse sulla strada. Eravamo tutti a terra intorno alla macchina. I due sergenti guardarono la macchina ed esaminarono le ruote. Poi si misero a camminare senza dire una parola. Li seguii. «Venite», dissi. «Tagliate un po' di frasche». «Dobbiamo andare», disse uno. «Spicciatevi», dissi, «e tagliate delle frasche». «Dobbiamo andare», disse uno. L'altro non disse nulla, avevano fretta di partire. Non mi guardarono. «Vi ordino di ritornare alla macchina e di tagliare delle frasche», dissi. Un sergente si voltò. «Dobbiamo andare, tra un momento sarete tagliati fuori, non può darci degli ordini, non è nostro ufficiale». «Vi ordino di tagliare delle frasche», dissi. Si voltarono e incominciarono a camminare giù per la strada. «Alt», dissi. Continuarono a scendere per la strada fangosa con una siepe per parte. «Vi ordino di fermarvi», gridai. Accelerarono un poco il passo, aprii la guaina, presi la pistola, mirai quello che aveva parlato di più e sparai. Sbagliai il colpo e incominciarono tutti e due a correre. Sparai tre volte, ne feci cadere uno. L'altro si infilò nella siepe e scomparve. Gli sparai attraverso la siepe mentre attraversava di corsa i campi. La pistola sparò a vuoto e misi un altro caricatore. Vidi che il secondo sergente era troppo lontano per sparargli. Era lontano oltre i campi e correva con la testa bassa. Incominciai a riempire il caricatore vuoto. Si avvicinò Bonello. «Lasci che vada ad ammazzarlo», disse. Gli tesi la pistola e lui scese dove il sergente dei genieri giaceva faccia in giù attraverso la strada. Bonello si chinò su di lui, appoggiò la pistola alla testa dell'uomo e tirò il grilletto. La pistola non sparò. «Devi mettere la palla in canna», dissi. Armò la pistola e sparò due volte. Prese il sergente per le gambe e lo spinse su un lato della strada in modo che giacesse accanto alla siepe. Ritornò e mi tese la pistola. «Quel figlio di un cane», disse. Guardò il sergente. «Ha visto come gli ho sparato, tenente?» «Dobbiamo mettere insieme in fretta quelle frasche», dissi. «Quell'altro l'ho colpito?» «Non credo», disse Aimo. «Era troppo lontano per poterlo prendere con la pistola». «Quel sacco di merda», disse Piani. Stavamo tutti tagliando rami e arbusti. L'ambulanza era stata completamente vuotata. Bonello stava scavando davanti alle ruote. Quando fummo pronti, Aimo accese il motore e innestò la marcia. Le ruote girarono a vuoto, schizzando frasche e fango. Bonello e io spingemmo finché ci scricchiolarono le giunture. La macchina non si mosse. «Falla andare avanti e indietro, Barto», dissi. Innestò marcia avanti e marcia indietro. Le ruote si limitarono ad affondare di più. Poi la macchina si appoggiò di nuovo sul differenziale e le ruote girarono a vuoto nei buchi che si erano scavati. Mi rizzai. «Tentiamo con una fune», dissi. «Non credo che serva, tenente. Non si può dare un colpo deciso». «Dobbiamo provare», dissi. «Non verrà fuori in altro modo». Le macchine di Piani e di Bonello potevano muoversi soltanto in avanti lungo la strada stretta. Legammo le macchine insieme e tirammo. Le ruote spingevano soltanto da una parte contro le carreggiate. «Non serve a niente», gridai. «Basta». Piani e Bonello scesero dalle macchine e tornarono indietro. Aimo scese. Le ragazze erano a una quarantina di metri sedute su un muretto. «Cosa ne dice, tenente?» disse Bonello. «Scaviamo e tentiamo di nuovo con le frasche», dissi. Guardai la strada. Era colpa mia. Ero io che li avevo condotti qui. Il sole era quasi calato dietro le nuvole e il corpo del sergente giaceva lungo la siepe. «Mettiamoci sotto la giubba e la mantella», dissi. Bonello andò a prenderle. Io tagliai le frasche e Aimo e Piani scavarono davanti e in mezzo alle ruote. Tagliai la mantella, poi la strappai in due e la distesi sotto le ruote nel fango e poi sopra mucchi di frasche, perché le ruote facessero presa. Eravamo pronti a partire e Aimo salì sul sedile e avviò il motore. Le ruote giravano a vuoto e noi spingemmo e spingemmo, ma non servì a niente. «È finita», dissi. «Hai bisogno di qualcosa nella macchina, Barto?» Aimo salì con Bonello, col formaggio e due bottiglie di vino alla mantella. Bonello, seduto dietro la ruota, frugava le tasche della giubba del sergente. «Meglio buttare via la giubba», dissi. «E le vergini di Barto?» «Possono salire dietro», disse Piani. «Non credo che andremo lontano». Aprì lo sportello posteriore dell'ambulanza. «Su», dissi. «Dentro». Le due ragazze salirono e sedettero nell'angolo. Pareva che non si fossero accorte della sparatoria. Mi voltai a guardare la strada. Il sergente giaceva nella camicia sudicia dalle maniche lunghe. Salii con Piani e accendemmo il motore. Volevo cercare di attraversare il campo. Quando la strada entrò nel campo, scesi e camminai avanti. Se riuscivamo ad attraversare, c'era una strada dall'altra parte. Non riuscimmo ad attraversare. Era troppo molle e fangoso per le macchine. Quando furono definitivamente e totalmente impantanate con le ruote sprofondate fino al mozzo, le lasciamo nel campo e ci avviammo a piedi verso Udine. Quando arrivammo alla strada che riconduceva allo stradone, lo indicai alle due ragazze. «Andate laggiù», dissi. «Incontrerete della gente». Mi guardarono. Presi il portafogli e diedi loro 10 lire per una. «Andate laggiù», dissi facendo segno. «Amici, famiglia». Non capirono, ma strinsero forte il denaro e incominciarono a scendere la strada. Si voltarono a guardare come se avessero paura che potessi riprendermi il denaro. Le guardai scendere la strada strette negli scialli, voltandosi preoccupate a guardarci. I tre chauffeur sridevano. «Quanto mi dà per andare in quella direzione, tenente?» chiese Bonello. «È meglio che siano in un mucchio di gente che sole», dissi. «Mi dia 200 lire e andrò defilato in Austria», disse Bonello. «Te le porterebbero via», disse Piani. «Forse la guerra sarebbe finita», disse Aimo. Camminavamo per la strada più in fretta che potevamo. Il sole cercava di spuntare. Lungo la strada vi erano siepi di more. Attraverso le siepi vedevo i nostri due grossi furgoni piantati nel fango. Anche Piani si voltò a guardare. «Dovranno costruire una strada per portarli via», disse. «Per Cristo, se avessimo la bicicletta», disse Bonello. «C'è l'uso della bicicletta in America?» chiese Aimo. «Una volta c'era». «Qui è una gran cosa», disse Aimo. «Una bicicletta è una cosa splendida». «Per Cristo, se avessimo la bicicletta», disse Bonello. «Non sono un camminatore». «Sono spari quelli?» Mi pareva di udire sparare a una grande distanza. «Non lo so», disse Aimo. Rimase in ascolto. «Mi pare di sì», disse. «La prima cosa che vedremo sarà la cavalleria», disse Piani. «Non credo che abbiano la cavalleria». «Spero di no, per Cristo», disse Bonello. «Non voglio essere infilato in una lancia da una cavalleria». «Ha proprio sparato a quel sergente, tenente», disse Piani. Camminavamo in fretta. «L'ho ucciso», disse Bonello. «Non ho mai ucciso nessuno in questa guerra. E per tutta la vita ho desiderato uccidere un sergente». «L'hai ucciso da seduto», disse Piani. «Non correva molto veloce quando l'hai ucciso». «Non importa, è una cosa che posso sempre ricordare. Ho ucciso quel... di un sergente». «Che cosa dirai in confessione?» chiese Aimo. «Dirò, beneditemi padre, ho ucciso un sergente». Risero tutti. «È un anarchico», disse Piani. «Non va mai in chiesa». «Anche Piani è anarchico», disse Bonello. «Siete anarchici sul serio?» chiesi. «No, tenente, siamo socialisti. Siamo di Imola. Non c'è mai stato?» «No». «Per Cristo, è un bel posto, tenente. Ci venga dopo la guerra e le faremo vedere qualcosa». «Siete tutti socialisti? Tutti quanti? È una bella città? Magnifica. Non ha mai visto una città così. Come mai siete diventati socialisti?» «Siamo tutti socialisti. Tutti quanti sono socialisti e siamo sempre stati socialisti». «Venga, tenente, faremo diventare socialista anche lei». La strada svoltò a sinistra e c'era una piccola collina e di là, di un muro di pietra, un frutteto di meli. Quando la strada incominciò a salire, smisero di parlare. camminammo insieme in fretta contro il tempo. Più tardi eravamo su una strada che conduceva a un fiume. Vi era una lunga fila di camion e carrette abbandonate sulla strada che conduceva al ponte. Nessuno era in vista. Il fiume era alto e il ponte era stato fatto saltare nel mezzo. L'arco di pietra era caduto nel fiume e l'acqua bruna lo copriva. Risalimmo la riva cercando un punto per guardare. Più in su sapevo che c'era un ponte ferroviario e pensavo di poter attraversare lassù. Il sentiero era bagnato e fangoso. Non incontrammo truppe, soltanto camion e provviste abbandonate. Lungo la riva del fiume non c'era nulla e nessuno, tranne le frasche bagnate e il suolo fangoso. Risalimmo la riva e finalmente vedemmo il ponte ferroviario. «Che bel ponte!» disse Aimo. Era un ponte di ferro lungo e semplice su ciò che di solito era il letto asciutto di un fiume. «È meglio che ci sbrighiamo e lo attraversiamo prima che lo facciano saltare», dissi. «Non c'è nessuno che possa farlo saltare», disse Piani. «Sono tutti andati. Probabilmente è minato», disse Bonello. «Vada prima lei, tenente». «Sentite l'anarchico», disse Aimo. «Faccia andare lui per primo». «Vado io», dissi. «Per minato che sia, non può saltare sotto una persona sola». «Vedete», disse Piani, «questo è cervello». «Perché non hai un po' di cervello, anarchico?» «Se avessi cervello non sarei qui», disse Bonello. «Questa è buona, tenente», disse Aimo. «Sì, questa è buona», dissi. Ora eravamo vicini al ponte. Il cielo si era di nuovo rannuvolato e pioveva un poco. Il ponte aveva l'aria di essere lungo e solido. Salimmo sulla scarpata. «Venite uno alla volta», dissi, e mi avviai attraverso il ponte. Guardai le traversine e le rotaie in cerca dei fili o dei segni dell'esplosivo, ma non vidi niente. Sotto le fessure delle traversine il fiume scorreva fangoso e veloce. Davanti a noi, oltre la campagna bagnata, si vedeva Udine nella pioggia. Traversato il ponte mi voltai a guardare. Un po' più in su del fiume c'era un altro ponte. Mentre guardavo lo attraversò una macchina a giallo fango. I parapetti del ponte erano alti e la macchina, mentre lo attraversava, non si vedeva. Ma vidi le teste dello chauffeur, dell'uomo seduto vicino a lui e di due uomini seduti sul sedile posteriore. Avevano tutti l'elmetto tedesco. Poi la macchina oltrepassò il ponte e scomparve dietro gli alberi e i veicoli abbandonati sulla strada. Feci cenno ad Aimo, che stava attraversando, e agli altri due di avvicinarsi. Scesi e mi accoccolai accanto alla scarpata della ferrovia. Aimo scese vicino a me. «Hai visto la macchina?» chiesi. «No, stavamo guardando lei. Una macchina dello Stato Maggiore tedesco ha attraversato quel ponte laggiù». «Dello Stato Maggiore?» «Sì». «Maria Santa!» Arrivarono anche gli altri e ci accoccolammo tutti nel fango dietro la scarpata, guardando il ponte di là delle rotaie, la fila degli alberi, il fosso e la strada. «Allora crede che siamo tagliati fuori, tenente?» «Non lo so, so soltanto che una macchina dello Stato Maggiore tedesco è passata su quella strada». «Non si sente qualcosa di strano, tenente?» «Non le è passato per la testa qualcosa di strano?» «Non fare lo scemo, Bonello». «Cosa ne direste di bere qualcosa?» chiese Piani. «Se siamo tagliati fuori possiamo anche bere». Sganciò la borraccia e l'aprì. «Guardate, guardate», disse Aimo, e fece segno verso la strada. Sul parapetto del ponte si vedevano muovere gli elmetti tedeschi. Erano piegati in avanti e procedevano dolcemente, quasi soprannaturali. Quando uscirono dal ponte li vedemmo. Erano truppe in bicicletta. Vidi la faccia dei primi due. Erano rubicondi e pieni di salute. Gli elmetti erano molto calcati sulla fronte e sulle guance. Le carabine erano fissate al telaio della bicicletta, le bombe a mano erano attaccate a manico in giù ai cinturoni. Avevano gli elmetti e le uniformi grigie bagnate e procedevano spediti guardando di fronte e ai due lati. Ce n'erano due, poi quattro allineati, poi due, poi quasi una dozzina, poi un'altra dozzina, poi uno da solo. Non parlavano, ma non avremmo potuto udirli per via del rumore del fiume. Scomparvero in cima alla strada. «Maria Santa», disse Aimo. «Erano tedeschi», disse Piani. «Quelli non erano austriaci». «Perché non c'è qualcuno a fermarli?» dissi. «Perché non hanno fatto saltare il ponte? Perché non ci sono le mitragliatrici lungo questa scarpata?» «Ce lo dica lei, tenente», disse Bonello. Ero furioso. Tutta questa maledetta faccenda non ha senso. Laggiù fanno saltare un ponticello, qui lasciano un ponte sulla strada maestra. Dove sono? Non cercano neanche di fermarli. Ce lo dica lei, tenente, disse Bonello. Tacqui. Non erano affari miei. L'unica cosa che avevo da fare io era raggiungere Pordenone con 3 ambulanze. Non c'ero riuscito. L'unica cosa che dovevo fare adesso era di andare a Pordenone. Probabilmente non sarei neanche riuscito ad arrivare a Udine. Non mi restava altro da fare che essere calmo, cercare di non venire ucciso né catturato. «Non avevi aperto una borraccia?» chiesi a Piani. Me la porse. Bevvi un lungo sorso. «Potremmo anche andare», dissi. «Ma non c'è fretta, volete mangiare qualcosa?» «Non è un posto da fermarci, sì», disse Bonello. «Bene, andiamo. Dobbiamo stare da questa parte, al riparo? È meglio che andiamo in cima. Può darsi che passino anche da questo ponte. Non conviene averli sulla testa prima che li vediamo». Procedemmo lungo il binario della ferrovia. Ai due lati si stendeva la pianura bagnata. Di fronte a noi, di là della pianura, era la collina di Udine. I tetti precipitavano dal castello sulla collina. Si vedevano il campanile e la torre dell'orologio. Nei campi vi erano molte more. Davanti a noi vidi un luogo dove le rotaie erano divelte. Anche le traversine erano state divelte e gettate giù dalla scarpata. «Giù, giù!» disse Aimo. Ci gettammo a terra accanto alla scarpata. Sulla strada passava un altro gruppo di ciclisti. Sporsi il capo e li vidi proseguire. «Ci hanno visti, ma sono andati avanti», disse Aimo. «Qui ci facciamo ammazzare, tenente», disse Bonello. «Non ci vogliono», dissi. «Cercano qualcos'altro. Sarebbe più pericoloso se ci arrivassero addosso d'improvviso». «Io preferirei togliermi di qui», disse Bonello. «Va bene, camminiamo lungo il binario». «Crede che ce la facciamo?» chiese Aimo. «Certo, non sono ancora in molti. Passeremo la linea di notte. Ma che cosa stava facendo quella macchina dello Stato Maggiore?» «Lo sai, Dio», dissi. «Ci avviamo lungo il binario». Bonello, stanco di camminare nel fango della scarpata, venne con noi. La strada ferrata ora si allontanava dallo stradone verso sud e non potevamo più vedere che cosa succedesse sulla strada. Un ponticello su un canale era saltato in aria, ma ci arrampicammo su ciò che restava della testata. Sentimmo sparare sopra di noi. Salimmo sulla strada ferrata di là del canale. Continuava diretta verso la città, oltre i campi e i piani. Si vedeva la linea dell'altra strada ferrata davanti a noi. Verso nord c'era lo stradone dove avevamo visto i ciclisti. A sud c'era una stradetta secondaria che attraversava i campi tra due file di alberi folti. Pensai che era meglio tagliare verso sud e cercare di aggirare in quel modo la città e attraversare la campagna verso Campo Formio e lo stradone al tagliamento. Potevamo evitare la linea principale della ritirata prendendo le strade secondarie di là da Udine. Sapevo che c'era un mucchio di strade laterali che attraversavano la pianura. Mi avviai giù dalla scarpata. «Avanti», dissi. Avremmo preso la strada secondaria dirigendoci verso il sud della città. Ci avviammo tutti giù dalla scarpata. Dalla strada secondaria ci spararono. La pallottola finì nel fango della scarpata. «Tornate indietro!» gridai. Mi avviai su per la scarpata, scivolando nel fango. Gli chauffeur erano là davanti a me. Risalii la scarpata più in fretta che potei. Dai cespugli folti giunsero altri due colpi e Aimo, mentre attraversava le rotaie, rimase un momento in bilico, esitò e cadde a faccia in giù. Lo attirammo dalla nostra parte e lo voltammo. «Dovrebbe avere la testa verso la collina», dissi. Piani lo spostò. Rimase disteso nel fango da un lato della scarpata, coi piedi rivolti alla base della collina, respirando irregolarmente sangue. Ci acquattammo tutti e tre su di lui nella pioggia. Era stato colpito alla nuca e la pallottola era uscita sotto l'occhio destro. Morì mentre gli arginavo i due fori. Piani gli posò la testa a terra, gli asciugò la faccia con un pezzo della benda d'emergenza. Poi non se ne occupò più. «Qui», disse, «non erano tedeschi. Non possono esserci tedeschi laggiù». «Italiani», disse Piani, usando la parola come un epiteto. «Italiani». Bonello non disse nulla. Era seduto accanto ad Aimo, senza guardarlo. Piani raccolse il berretto di Aimo in fondo alla scarpata dove era rotolato e gli coprì la faccia. Prese la borraccia. «Vuoi bere?» Piani tese a Bonello la borraccia. «No», disse Bonello. Si rivolse a me. poteva succederci da un momento all'altro, sulle rotaie della strada ferrata. No, dissi. È stato perché abbiamo attraversato il campo. Bonello scosse il capo. Aimo è morto, disse. A che tocca ora, tenente? Dove andiamo adesso? Erano italiani quelli che hanno sparato. Non erano tedeschi. Se erano tedeschi ci ammazzavano tutti, disse Bonello. Per noi sono più pericolosi gli italiani dei tedeschi, dissi. La retroguardia ha paura di tutto. I tedeschi sanno quello che vogliono. Ci pensi sopra, tenente, disse Bonello. Dove si va adesso? Chiese Piani. È meglio che ci fermiamo in qualche posto finché è buio. Se riusciamo ad andare sud siamo a posto. Dovrebbero spararci tutti per dimostrare che avevamo ragione la prima volta, disse Bonello. Non ho intenzione di metterli alla prova. Cerchiamo un posto dove fermarci, il più possibile vicino a Udine, e poi attraversiamo quando è buio. Allora andiamo, disse Bonello. Scendemmo la scarpata al lato nord. Mi voltai. Aimo giaceva nel fango sul fianco della scarpata. Era molto piccolo e aveva le braccia aderenti al corpo, con le gambe strette nelle fasce, gli scarponi fangosi riuniti e il berretto sulla faccia. Era proprio morto. Pioveva. Gli avevo voluto bene come uno qualunque dei miei conoscenti. Avevo i suoi documenti in tasca e avrei iscritto la sua famiglia. Davanti a noi, di là dei campi, c'era una fattoria. Intorno c'erano degli alberi e gli edifici della fattoria erano costruiti contro la casa. Al secondo piano c'era un balcone sorretto da colonne. «È meglio stare un po' divisi», dissi. «Io vado avanti». Mi avviai verso la fattoria. C'era un sentiero che attraversava il campo. Attraversando il campo sapevo solo una cosa, che qualcuno ci avrebbe sparato dagli alberi della fattoria o dalla fattoria stessa. Camminai in quella direzione rendendomene chiaramente conto. Il balcone del secondo piano dava sul fienile e c'era del fieno che sporgeva tra le colonne. Il cortile era di lastre di pietre e tutti gli alberi gocciolavano di pioggia. C'era un grosso carro a due ruote, vuoto, e le stanghe erano ritte nella pioggia. Arrivai nel cortile, lo attraversai e mi fermai al riparo del balcone. La porta della casa era aperta e io entrai. Bonello e Piani entrarono dietro di me. Dentro era buio. Ritornai in cucina. Sul grosso focolare aperto vi erano le ceneri di un fuoco. Le pentole erano sopra la cenere, ma erano vuote. Mi guardai attorno, ma non riuscii a trovare niente da mangiare. «Sarà meglio fermarci nel fienile», dissi. «Credi di riuscire a trovare qualcosa da mangiare, Piani, per portarlo quassù?» «Ora do un'occhiata», disse Piani. «Anche io», disse Bonello. «Va bene», dissi. «Io andrò su a vedere il fienile». Trovai una scala di pietra che saliva dalla stalla sottostante. La stalla aveva un odore asciutto e piacevole nella pioggia. Il bestiame era tutto scomparso, probabilmente trascinato fuori al momento della partenza. Il fienile era mezzo vuoto, nel tetto c'erano finestre. Una bloccata di assi, l'altra era una piccola lucerna al lato nord. Vi era una tramoggia per far scendere il fieno al bestiame. C'erano dei raggi che attraversavano l'apertura fino al pavimento principale, dove entravano i carri quando portavano dentro il fieno da ammassare. Udii la pioggia sul tetto e aspirai il fieno. E quando scesi, l'odore pulito di concime secco nella stalla. Si poteva divellere un asse e guardare dalla finestra a sud che dava nel cortile. L'altra finestra dava sul campo verso nord. Potevamo uscire dalla finestra sul tetto e poi calarci a terra o scendere per la tramoggia del fieno se le scale diventavano impraticabili. Era un grosso fienile e se sentivamo qualcuno potevamo nasconderci nel fieno. Pareva un buon posto. Ero certo che saremmo riusciti a passare a sud se non ci sparavano. Era impossibile che lì ci fossero i tedeschi. Stavano arrivando da nord, scendendo la strada da Cividale. Non potevano arrivare da sud. Gli italiani erano ancora più pericolosi. Avevano paura e sparavano su tutto quello che vedevano. L'ultima notte della ritirata circolava la voce che vi fossero molti tedeschi in uniforme italiana mescolati nella ritirata verso nord. Non lo credevo. Era una di quelle cose che si sentono sempre dire in guerra. Era una delle cose che il nemico faceva sempre. Non si conosceva nessuno che fosse andato con l'uniforme tedesca a fare guai. Forse lo avevano fatto, ma pareva difficile. Non credevo che i tedeschi lo avessero fatto. Non c'era bisogno di fare guai nella nostra ritirata. Gli facevano la mole dell'esercito e la scarsità delle strade. Nessuno dava ordini, compresi i tedeschi. Pure ci avrebbero sparato prendendoci per tedeschi. Avevano sparato ad Aimo. Il fieno aveva un buon odore e a stare distesi nel fienile scomparivano tutti gli anni in mezzo. Eravamo stati sdraiati nel fieno a chiacchierare e sparare i passeri con il fucile ad aria quando si affacciavano nel triangolo tagliato in cima al muro del fienile. Il fienile non c'era più ora. E un anno avevano tagliato i boschi d'abete e dove erano stati i boschi c'erano soltanto monconi, rami secchi e fascine. Non si poteva tornare indietro. Se non si andava avanti, che cosa succedeva? Non si tornava mai a Milano. E se si tornava a Milano, che cosa succedeva? Ascoltai la sparatoria a nord verso Udine. Si distinguevano le mitragliatrici. Non c'era fuoco d'artiglieria. Era già qualcosa. Dovevano avere preso delle truppe lungo la strada. Guardai giù nella mezza luce del fienile e vidi Piani ritto sul pavimento. Aveva una lunga salsiccia, una brocca di qualcosa e due bottiglie di vino sotto il braccio. «Vieni su», dissi. «C'è lì la scaletta». Poi capii che dovevo aiutarlo a portare la roba e scesi. Ero stordito per essere rimasto nel fieno, mi ero quasi addormentato. «Dov'è Bonello?» chiesi. «Ora glielo dico», disse Piani. Salimmo la scaletta. Arrivati sul fieno posammo ogni cosa. Piani prese il temperino col cavatoraccioli e cavò il tappo a una bottiglia di vino. «C'è sopra la cera», disse. «Deve essere buono». Sorrise. «Dov'è Bonello?» chiesi. Piani mi guardò. «Se n'è andato, tenente», disse. «Ha voluto darsi prigioniero». Non disse niente. Aveva paura che ci avrebbero ammazzato. Alzai la bottiglia di vino e non disse niente. «Vede, non crediamo nella guerra, tenente». «Perché non sei andato anche tu?» chiesi. «Non volevo lasciarla». «Dove è andato?» «Non lo so, tenente, se n'è andato». «Va bene», disse. «Vuoi tagliare la salsiccia?» Piani mi guardò nella penombra. «L'ho tagliata mentre parlavamo», disse. Sedemmo nel fieno a mangiare la salsiccia e bere il vino. Doveva essere vino conservato per un matrimonio. Era così vecchio che stava perdendo il colore. «Guarda da quella finestra, Luigi», dissi. «Io guardo dall'altra».